известные проблемы в мировых финансах. I'm beginning a conversation with you, with America. Jefferson 2, l'arte della svolta, di Stefano Pistolini. Hello, Ghana! Thank you, thank you. I want to thank the people of Ghana for this extraordinary visit. Michelle and I have been greatly honored to be joined by President Mills and his lovely wife. They have been gracious hosts. You know, your president and I have a lot in common. We're both lawyers, we're both former law professors, we're both new presidents. We both like to think of ourselves as athletes. The difference is President Mills played hockey on the national team of Ghana and I played basketball mostly in my backyard. E questo è il gemellaggio che Barack Obama ha proposto alla folla applaudente che lo ascoltava in Ghana poco prima lasciare il paese africano, fra se stesso, fra la sua appena nata, insomma fresca presidenza e quella del presidente Mills, il nuovo presidente del Ghana, nei confronti dei quali ha espresso giudizi estremamente positivi e complimenti nel riconoscere in lui una nuova incarnazione della democrazia e tanti poi paragoni possibili, no? nella loro rispettiva rincorsa alla prima poltrona della nazione, non ultima quella, come ha concluso in questo saluto Barack Obama, di essere entrambi atleti. Mills, membro della squadra di hockey del Ghana, dice: io sono un giocatore di basket da cortile, gioco nel cortile dietro casa, ma insomma sento una affinità nei suoi confronti, e questo è stato l'atto conclusivo della tournée in giro per il mondo di Barack Obama. Tre tappe essenziali che hanno coperto praticamente tutta la scorsa settimana: Mosca, con il riavvicinamento, la riapertura di discorsi lasciati incompiuti, l'individuazione di una possibile piattaforma comune, poi il G8, il trionfale G8 di Barack Obama, dove all'insegna dei temi che erano sul tavolo di questa edizione del summit, ovvero la questione dell'ambiente e soprattutto la questione della povertà e dell'Africa, Barack Obama è passato come il vero e proprio innovatore, come colui che porta la torcia da seguire, ed è abbastanza paradossale dal momento che il presidente americano, soprattutto su questioni relativi alle questioni climatiche, la presidenza americana, diciamo così, a lungo ha occupato posizioni invece piuttosto di retroguardia. Poi c'è stato l'interludio, l'incontro con Benedetto XVI, Papa Ratzinger, un incontro programmato negli ultimi giorni, ma anche per questo individuato dagli osservatori come un momento di forte attualità, di forte volontà. Lo si è fatto non perché in programma, ma perché c'era bisogno, c'era desiderio di farlo dalle due parti, anche se la stampa americana è stata molto fredda, in certi casi addirittura ironica, sardonica nei confronti di questo breve incontro a quattro occhi tra il Papa e Barack Obama. Dopo il pop show, il peep show, ha scritto il cattivissimo New York Post, dopo lo show papale, lo show, la parola peep è naturalmente riferito alle questioni mai del tutto seppellite di polemica nei confronti del clero cattolico per gli episodi che ben conoscete di pedofilia che hanno lungamente occupato le pagine dei giornali. E infine la tappa in Ghana, la tappa ad Accra, il discorso all'Africa con un palinsesto molto chiaro, se vogliamo anche intinto nel populismo, ma delle parole chiave essenziali e chiare veramente a qualsiasi ascoltatore, no? Democrazia, opportunità, salute, risoluzione pacifica dei conflitti. E poi il ritorno in patria, dove ha trovato se me la passate un po' un'altra atmosfera, un'altra temperatura. Per cui la settimana di oggi, per quello che riguarda le nostre riflessioni sugli andamenti della amministrazione americana targata Barack Obama, partono proprio da questo. Esistono due Barack Obama, esiste tra l'altro esiste un fantasma di Jimmy Carter in giro qualche parte, ma insomma esiste un Barack Obama vero e proprio fenomeno da esportazione, perché è innegabile che il mondo non smetta di invidiare agli Stati Uniti il suo presidente. Insomma, in occasione del G8 questo è stato chiaro, lampante, non dico che si pende dalle sue labbra, ma insomma il trattamento che le sue parole ricevono è straordinario, superiore a quello riservato a qualsiasi altro leader. È formidabile il rispetto che lo circonda, ma anche l'affetto, l'ammirazione e poi qualcosa di più che sfocia nel territorio della cultura popolare anziché della politica tout court. Però poi ci sono i guai di casa, ci sono le inquietudini interne, c'è la crisi difficile da superare, c'è Barack Obama che appena torna a casa pubblica un articolo sul Washington Post intitolato "Ricostruire qualcosa che funzioni meglio, che vada meglio", ed è un articolo assai più cauto, se mi passate l'espressione. Lui scrive: "Confido gli Stati Uniti supereranno questa tempesta economica, ma una volta spazzati via i rottami, la vera domanda riguarderà cosa costruire al suo posto. Anche se rilanceremo l'economia in piena crisi, ritengo sia nostro dovere ricostruirla meglio di prima, perché se non approfitteremo di questo momento per fare i conti con la debolezza che ha afflitto la nostra economia per decenni, noi e i nostri figli ci troveremo ad affrontare nuove crisi, una crescita lenta o entrambe". Echeggiano addirittura alcune parole dell'enciclica papale in questo pensiero riguardo al cambiare severamente binario. Però poi c'è un dato di fatto: che l'America non sta economicamente, internamente, in chiave domestica, funzionando come ci si aspettava anche nel breve lasso di tempo di questa presidenza, anche se poi si sa i guai vanno in profondità, il tempo è poco. Ma un Obama che dice dovremmo aspettare per affrontare le sfide più grandi, e a me viene subito da pensare alla questione sanità così in bilico, potrebbe essere un presidente, come dire, che comincia a giocare almeno sul fronte interno un po' sulla difensiva. Questo per introdurre il discorso. Abbiamo un ospite con cui parlarne, un ospite abituale qui a Jefferson, si chiama Andrea Mancia, il vice direttore di Liberal, segue con passione, interesse e competenza le cose americane, e io lo saluto e lo ringrazio di essere qua. Ciao Andrea. Buon pomeriggio a tutti. Allora, che ne dici di questa idea dei due Obama in circolazione, il trionfatore internazionale e poi, come dire, un po' il boxer che fa un po' melina, che si difende un po' dagli attacchi in chiave interna? Non sembrano mica lo stesso personaggio, sembrano due persone quasi diverse. Che dici? È un'ipotesi stimolante, devo dire, degna di riflessione. Di sicuro Obama gode di più credito al di fuori del proprio paese di origine rispetto a quanto non ne goda all'interno degli Stati Uniti, e soprattutto dà l'impressione, come dicevi, di giocare molto più in difesa fra le mura domestiche rispetto a quanto non faccia fuori. Mi ricordo la celebre frase di Harry Stevenson, che dopo aver perso le presidenziali nel 1956 con Eisenhower disse: "Io ero il candidato migliore di tutti, avevo solo sbagliato continente". Diciamo, Obama invece le presidenziali le ha vinte anche con un margine non gigantesco, ma insomma un margine netto rispetto agli standard americani, quindi diciamo il paragone è sicuramente un po' forzato. Ma soprattutto sembra che il mondo sia il mondo, insomma, alcuni leader importanti del mondo e tutti gli apparati che stanno alle loro spalle ascoltino il dettato, le indicazioni, in certi casi addirittura le visioni di Obama, quasi come un solco nel quale entrare immediatamente, istradarsi e seguire, no? Come se fosse veramente l'uomo con la bacchetta magica. In America mi sembra che questa bacchetta sia, se non altro, un po' accorciata. Forse gli americani sono più pragmatici dell'europeo, certo, medio, e del governante europeo medio, sicuramente. La cosa certa è che dopo una luna di miele anche in casa molto, molto accentuata, Obama, diciamo la popolarità di Obama sta attraversando una fase di lento direi declino, insomma di lento intiepidimento, avvicinandosi a standard diciamo normali rispetto a quelli a cui ci aveva abituato nei primi mesi del suo mandato. Io ho visto ieri Rasmussen che fa per esempio il job approval quotidiano, che lo dava nell'ultima settimana lo dava fra il 51 e il 52, quindi sotto anche la quota di partenza dell'elezione, che era il 53 se non sbaglio, no? Beh sì, diciamo che quello è il punto di flesso, direbbero gli economisti, da tenere d'occhio. Cioè se Obama va sotto al 53, ora è uno dei sondaggisti, per esempio Gallup lo dà al 56 ancora, però quello è un punto da tenere molto, molto sott'occhio secondo me, perché se la situazione economica continua, diciamo, a non essere buona, e se sempre più americani iniziano a dimenticarsi di quello che hanno creduto fino adesso, cioè che è tutto colpa dell'amministrazione Bush, ma iniziano a fare i conti con la non efficacia dei provvedimenti, certo. Sì, se non iniziano a non vedere che i provvedimenti così pompati dalla stampa e dai media, e l'economia non migliora, diciamo. Senti Andrea, arriva via SMS un paragone interessante che ti sottopongo subito, perché è un po' trasversale ma è divertente. Un ascoltatore ci scrive: non è una novità che le cose vadano così, anche Gorbaciov era un eroe solo in Europa perché l'erba del vicino è sempre più verde. Questo paragone con Gorbaciov è ancora più forzato con Stevenson, in realtà, perché poi Gorbaciov, quando si è presentato alle presidenziali, ha preso il 3-4%, quindi diciamo Obama deve ancora dimostrare di scendere fino al 3%. Senti, sono ancora due cose che ti voglio chiedere. La prima è un tuo pensiero, un tuo punto di vista sull'effetto Obama in Italia. Mi sembra che siano state, sia dal punto di vista dei media, sia dal punto di vista dell'opinione pubblica, dei discorsi che si sentono fare in circolazione, l'effetto qui, appunto, continuando il discorso che avevamo cominciato prima, continui in modo prodigioso, addirittura provocando una specie di nostalgia da mancanza di Obama, no? Noi non ce lo abbiamo e si soffre, è così? I media italiani siano l'unico paese, forse all'eccezione degli stessi Stati Uniti sotto campagna elettorale, però adesso la cosa è diversa, in cui Obama riesce a raccogliere consensi a destra, a sinistra, sopra, sotto. Esatto, proprio questo volevo dire. Nelle fasce estreme, tra i moderati, fra i giovani, fra i vecchi. Ci mette il suo anche Berlusconi, che peraltro ha ormai si è messo in un solco laudatorio nei confronti di Obama, permanente. Obama, diciamo, Berlusconi riesce a capire il personaggio che tira dal mestiere precedente, e entra nella scia e ne sfrutta l'effetto in maniera incredibile, secondo me. Sta di fatto che oggettivamente Obama in Italia, io mi ricordo sotto elezioni c'erano addirittura dei blog e dei siti con sostenitori del PDL pro Obama. No, questo mi fa pensare, perché insomma con un congresso, con delle primarie, no, del Partito Democratico in vista, e con quello che è già successo nell'ultima occasione, il chiamiamolo lo spettro del diventare il nuovo Obama risuona anche un po' sinistro, che dici? Sì, risuona, secondo me soprattutto risuona in maniera piuttosto sinistra. Io quando vedo il totale accordo di tutte le parti politiche inizio a sospettare, e sento sempre puzza di bruciato. Certo. Non c'è dubbio che Obama, quando va fuori, se sembra sempre in splendida forma. Il discorso del tenuto ad Accra in Ghana era ottimo, come quello del Cairo, come quello di Mosca, come quello di Praga. Se me la passi anche vabbè che gli speechwriter per l'estero, come dice, lavorano sui grandi temi, di una semplicità un po' disarmante. Non è che avesse una profondità filosofica straordinaria, insomma, diceva cose belle e giuste, ma anche, come dire, un po' lì, un po' visibili, no? Continuo a trovarci lo stesso difetto che ci trovo da sempre, e questo devo dire anche nei discorsi di politica interna, però, cioè la mancanza di un contenuto politico concreto che diciamo dia spessore alla visione. Cioè la visione oggettivamente c'è, diciamo, questo diamolo per accurato. Certo, certo. Se poi uno può essere d'accordo o non d'accordo, queste sono cose personali, insomma. Certo, certo. giudizi personali. Quello che però oggettivamente secondo me manca è un contenuto politico concreto che dia spessore al tutto. Cioè, quando lui parla di democrazia, di diritti umani, di good governance, devo dire che diciamo, rispetto all'Africa, molto in continuità con l'amministrazione Bush, sono cose sacrosante oggettivamente. Poi il problema è USAID continuerà a dare i soldi ai governi che ne spenderanno il 90% in armamenti e il 10% per sedare l'opposizione interna dei singoli paesi, o troverà il modo di dare anche meno soldi, se vogliamo, ma alle persone giuste, alle imprese, alla società civile? Cioè, lui è in grado, per esempio, di nominare qualcuno alla US Agency for International Development capace di corrispondere alla sua visione macroscopica e di dare concretezza alla sua visione? Queste sono cose che ancora non abbiamo visto, speriamo tutti di vederle in futuro. Senti, ecco, l'ultima cosa che ti volevo chiedere riguarda per l'appunto le promesse, le famose promesse di Barack Obama. Ce n'è una sul tavolo ormai cotta al punto giusto, che è la questione della sanità, sulla quale dopo una serie di rilanci piuttosto concitati durante il mese di giugno, poi si è assistito a una serie di progressivi, più o meno diplomatici, rallentamenti, forse perché c'è la sensazione che davvero quei soldi non ci siano, che promettere che non costerà niente a nessuno è una promessa un po' troppo audace, però al tempo stesso incassare una seconda sconfitta dopo quella della coppia Clinton o anche semplicemente un rinvio della questione a tempi migliori, forse è troppo tardi, è andato troppo avanti sulla storia di garantire a tutti gli americani un'assistenza sanitaria degna di questo nome. È il nodo su cui si giocherà parte o buona parte della partita, o forse gli americani tutto sommato guardano ancora più avanti o ancora più vicino, guardano veramente alle questioni occupazionali prima ancora che alle garanzie universali di sanità? Che dici? Beh, no, io questo, di sicuro gli americani guardano anche allo stato generale dell'economia e all'andamento dei posti di lavoro, questo non c'è dubbio, però è anche vero che la riforma del sistema sanitario è considerato un tema imprescindibile dalla gran parte dei cittadini americani, e la gran parte dei cittadini americani, in tutti i sondaggi degli ultimi due anni almeno, va nella stessa direzione in cui teoricamente andrebbe la riforma Obama. Il problema è che, del tutto inaspettatamente per me, devo dire, Obama su questa vicenda si è un po' incartato. Io ero convinto che dopo il flop del 92 di Hillary, sinceramente i democratici non vedessero l'ora di tornare alla Casa Bianca con tutte e due le camere, di cui il Senato addirittura approva di bomba, per poter finalmente dare sfogo alla loro ipotesi di riforma. Io invece vedo i Blue Dogs, cioè i cosiddetti conservatori o moderati, meglio, democratici, dettare condizioni alla leadership sia di Senato che di Camera. L'amministrazione Obama dare segnali contrastanti, appunto, prima rilanciare e poi immediatamente dopo al primo segnale controtendenza di giocare in difesa. Sinceramente io non riesco a... mi sembra così impossibile che per la seconda volta, certo, i democratici si infrangano contro l'iceberg della riforma sanitaria, che appunto mi sembra un'ipotesi veramente a cui non voglio neanche pensare. Ma cos'è secondo te? Miopia di pianificazione? Una strategia un po' sballata? Secondo me è di pianificazione, cioè diciamo l'animo soprattutto dell'ala più di sinistra del partito, che è rooseveltiana per vocazione e statalista per nascita e per studi, che cerca di fare cose che in un paese dove ancora comunque malgrado tutto il privato e il mercato sono considerate cose positive e non cose negative, hanno difficoltà, diciamo, a tradurre poi in piani concreti la loro visione. Io non credo che Obama faccia la fine di Hillary, per capirci. Certo. Di sicuro questo è il nodo su cui si giocherà gran parte del dibattito politico nel 2010, alle elezioni midterm e in prospettiva anche nel 2012. Bene, io ringrazio Andrea Mancia di queste sue analisi, vi ricordo lo potete leggere su Liberal. Nel frattempo, prima che passiamo a occuparci di Afghanistan, nel secondo la seconda parte del programma. Le televisioni americane sono concentrate su Sonia Sotomayor, che sta passando, come si dice, l'ultimo esame necessario, indispensabile per approdare alla Corte Suprema degli Stati Uniti e portare con sé quel margine di cambiamento che sembra la sua personalità, la sua carriera e il suo curriculum promettere. Oggi farà il suo discorso programmatico, in un certo senso si presenterà, poi comincerà a rispondere ad alcune domande formulate dai senatori. È arrivata la telefonata di in bocca al lupo di Obama, che naturalmente, oltre ad averla prescelta, è un suo paladino, insiste sulla esperienza personale di questo giudice cresciuto nel Bronx. Su di lei sono puntati i riflettori della politica americana di oggi, anche se sembra piuttosto tranquillo, piuttosto al sicuro la sua nomina. Non ci dovrebbero essere incidenti di percorso, ma come sempre in questi casi sono procedure da seguire con attenzione, perché poi questi eletti alla Corte Suprema sono personaggi veramente in grado di influenzare, di modificare, di toccare la vita di tutti i giorni di tutti gli americani. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away, wonder this time where she's gone. Wonder if she's gonna stay. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime goes away. And I know. Hey, I ought to leave the young thing alone, but ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. In this house, this ain't no home. Anytime she goes away. Dunque, sabato sul New York Times è apparso un articolo, il primo probabilmente di una serie di articoli dal tenore, dal tono e dal significato assai preoccupante e certamente anche piuttosto importante. Si risale nella ricostruzione offerta al novembre 2001, pochi giorni dalla conquista di Kabul, allorché, sostiene il quotidiano di New York, almeno 1500 prigionieri talebani vennero uccisi dagli uomini di Abdul Rashid Dostum, un signore della guerra, sul libro paga della CIA. Il New York Times scrive anche che il governo di George W. Bush avrebbe ripetutamente scoraggiato una inchiesta condotta dalla FBI, dal Dipartimento di Stato, dalla Croce Rossa sulla morte di questi detenuti. C'era stata una inchiesta 2002 dell'ONU dopo la scoperta di alcune fosse comuni vicino Shibergan, nel nord del paese, città peraltro natale, quartier generale di Dostum, ma poi anche in questo caso l'attività si era fermata, era stata insabbiata e ora risalta fuori prepotentemente la questione di queste fosse comuni, 1500, forse addirittura 2000 cadaveri scoperti al loro interno e le motivazioni, soprattutto le coperture, tutt'altro che chiare. Il tutto mentre la questione Afghanistan ormai occupa a tutto tondo il centro della dello scenario di crisi medio orientale, sempre più sanguinoso, molti morti britannici che hanno costretto tra l'altro Gordon Brown a giustificare la missione, ricordando ai propri elettori che il vero scopo della mobilitazione in Afghanistan è evitare che il terrorismo dilaghi nel mondo. Poi c'è una missione americana che subisce perdite piuttosto importanti nel corso della controffensiva lanciata nelle ultime settimane, e c'è naturalmente una presenza italiana importante, significativa, che potrebbe trovare nuova linfa e nuovi scopi nelle direzioni, nel coordinamento generale di questa missione in Afghanistan, che nella seconda parte del 2009 ha proprio l'aria di diventare il focus principale del Medio Oriente visto da Occidente. Noi abbiamo, e lo ringraziamo per questo, in collegamento da Herat, città capoluogo della omonima provincia dell'Afghanistan, Andrea Margelletti, il presidente del CESI. Già sento che la linea è caduta, non è un collegamento facile, si trova in Afghanistan già da qualche giorno e ci potrà dare, se riusciamo a ristabilire il contatto, un punto di vista diretto, un contatto diretto con quanto sta osservando nello scenario di Herat, dove agiscono tra l'altro i militari italiani. Torniamo a Gordon Brown. Non sembra particolarmente convincente nelle ultime ore, né convinto egli stesso della necessità, della forza, dell'intensità e soprattutto della prosecuzione della missione. Lo stiamo vedendo ora in diretta su CNN, che sta riferendo proprio in questo momento alla Camera inglese in relazione a tutto ciò. Obama ha cercato di dare aiuto, di dare manforte a Brown. La guerra in Afghanistan, ha detto Obama, è parte essenziale della lotta mondiale al terrorismo, un concetto caro alla passata amministrazione, che dopo un fugace, evidentemente così, appannamento, una momentanea rimozione, sta tornando ora in auge. Non è un affare americano, ha detto Barack Obama, gli interessi gli europei ne hanno un interesse uguale se non maggiore degli americani. La probabilità di un attacco terroristico a Londra è esattamente uguale se non più alta di un attacco terroristico negli Stati Uniti d'America. Poi c'è la valutazione su quanto avviene sul campo. L'estate sarà dura, le informazioni che arrivano dai comandanti in Afghanistan non sono incoraggianti. L'estate sarà dura, le perdite ci saranno, i talebani saranno ricacciati indietro, ma la via per raggiungere questo obiettivo è lunga, e la prima tappa sono naturalmente le elezioni del mese prossimo, perché poi anche attorno a questo tutto ruota. I manifesti elettorali in Afghanistan sono ovunque, si vedono ad esempio in ogni angolo di Kabul, ci hanno raccontato i nostri amici corrispondenti. Di solito il maggior numero ritrae Hamid Karzai mentre abbraccia un bambino, e l'immagine che ha scelto per sostenere la propria campagna elettorale. Dall'inizio della campagna elettorale più di 50 manifestazioni sono state organizzate dai supporter di Karzai, sono numeri importanti per la politica in Afghanistan, anche se lo stesso Karzai non ha mai partecipato. Adesso, secondo il Washington Post, i suoi avversari starebbero recuperando terreno in questo poco più di mese che manca al voto. Il presidente in carica, in cerca di riconferma, dovrà evidentemente aumentare i propri sforzi. Ahmad Omar, che è il portavoce della campagna di Karzai, dice: il presidente non è preoccupato da alcun dibattito, ma noi temiamo che i suoi avversari non conoscano i principi cardine di una conversazione. Un dibattito non dovrebbe essere un campo di battaglia. In pratica si sostiene che Karzai evita, o sta evitando fin qui, i dibattiti con i concorrenti, perché teme di essere aggredito verbalmente, politicamente, da chi concorre con lui, e gli vengano evidentemente addossate delle colpe che non sente proprie. Nonostante sia improbabile un insuccesso di uno qualsiasi degli sfidanti di Karzai, gli esperti sostengono che gli altri candidati sono comunque già in grado di minacciare la sua candidatura. Ma abbiamo ora di nuovo Margelletti in linea da Herat, lo chiamiamo subito in causa e lo ringraziamo per essere con noi. Salve Andrea. Grazie a voi, buonasera a tutti. Scusate, la linea, come potete immaginare, è quella che è. Certo, certo. Facciamo così, dacci direttamente tu un giro d'orizzonte di quello che con i tuoi occhi stai vedendo, di cui stai venendo a conoscenza, che ci puoi testimoniare dello scenario in Afghanistan. Senza rispondere a tante domande, vai direttamente tu a darci un aggiornamento e ti ringraziamo per questo. Allora, no, grazie a voi. La situazione qui è estremamente complessa perché è in atto una battaglia di amplissima fronte nel sud del paese, gli statunitensi e i britannici in primis. Questo spinge alcune bande talebane, perché oramai si suddivisero in bande di da 10 a 200 persone, addirittura verso la zona nord, nel quale sono presenti peraltro i nostri soldati, quindi nella regione ovest, quella sotto responsabilità italiana. Naturalmente vi sono alcune località che sono più vicine o addirittura Pashtun, nonostante diciamo sacche Pashtun nella zona occidentale del paese, che invece è maggioranza azara, sciita, tanto per intenderci, e in quelle zone naturalmente è molto più complesso operare perché i talebani godono di un naturale e ovvio supporto locale. C'è da dire però, e questo lo dico con certezza vivendole in queste ore, che buona parte del paese vuole cambiare, c'è grande collaborazione da parte degli afghani, che si rende forze di polizia, delle forze di frontiera, dell'esercito afghano, che si rendono conto come il paese si trovi a un bivio tra una lunghissima stabilizzazione e il rischio di ritornare nel medioevo del diritto. Quindi buona parte della popolazione afghana supporta l'azione della coalizione internazionale. Devo dire in particolare i nostri, come al solito, insomma, lo diciamo da tempo, i nostri si comportano egregiamente perché sono italiani, e quindi c'è un atteggiamento nei confronti della popolazione civile che è quella che è sempre stato il nostro. Qui c'è la Brigata Folgore e stanno operando diciamo con la tradizionale efficienza di uno strumento d'élite come quella dei paracadutisti. Bene, le notizie che ti arrivano relative per esempio a questa crisi che si sta aprendo in America, la scoperta di colossali fosse comuni con migliaia di cadaveri di talebani, forse probabilmente vittima di un signore della guerra, di questo Abdul Rashid Dostum, ti sono arrivate echi di queste ultime vicende? Dostum è un massacratore che ha venduto di volta in volta la propria fedeltà e le proprie capacità militari al migliore offerente. Qui, è bene dirlo, il nemico non ha un uniforme, non c'è un tratto distintivo. Alcuni hanno il turbante nero dei talebani, ma non necessariamente lo indossano sempre. Quindi sono tutti civili e moltissimi sono anche, oltre a essere civili, guerriglieri, insorgenti come vengono definiti. Certo. E c'è un odio, non c'è un senso del rispetto, quindi qua il concetto di rispetto del prigioniero lo portiamo, la Convenzione di Ginevra, stiamo parlando di un mondo lontano milioni di chilometri da qui. E in questo contesto i regolamenti di conti all'interno del mondo afghano rispondono a delle leggi che fortunatamente noi in Europa non viviamo da molti secoli. Ti ringrazio, ringrazio davvero Andrea Margelletti, il presidente del CESI, il Centro Studi Internazionali, che ci ha offerto questa testimonianza in diretta da Herat, la città capoluogo dell'omonima provincia dell'Afghanistan, dove si trova in questi giorni in visita e in missione. Poi contiamo di averlo nuovamente ospite con noi non appena sarà rientrato in Italia. Quello che è certo è che quello che ci ha testimoniato e quello che ci arriva dalle cronache è una situazione difficilissima che si va aggravando, soprattutto che si va accentuando. concentrando, si va arroventando, in quanto è come se tutti gli interessi si fossero ormai spostati, gli interessi di una parte e dell'altra, di chi vuole stabilire un nuovo ordine, di chi vuole stabilire il disordine, di chi prova a difendere un vecchio ordine. Tutto ciò si sta centralizzando nella regione dell'Afghanistan ed è qui che nei prossimi mesi, credo, dovremo seguire l'evolversi principale, decisivo degli scenari e della situazione. Ora un po' di musica, poi il traffico. Gradi. News dai punti sensibili del pianeta. Bene, siamo soddisfatti di aver realizzato il nostro collegamento con Herat, insomma, saremo nel XXI secolo, ma certi collegamenti non sono mai facili, avere una testimonianza diretta è sempre interessante. Adesso alcune notizie. Rimane avventuroso dunque il collegamento con l'Afghanistan, mentre rimane in ebollizione e a suo modo avventuroso ma anche tragico il contesto nello Xinjiang, questa regione dell'ovest della Cina, ritornata prepotentemente sulle prime pagine dei giornali la settimana scorsa. Continuano gli scontri, oggi l'agenzia Nuova Cina riferisce di due persone uccise dalla polizia locale ad Urumqi e i sospetti pare stessero per aggredire un'altra persona con coltelli e bastoni e sono di etnia uigura, quindi lo scontro rimane ancora apertissimo e incerto ad Urumqi e in tutto lo Xinjiang. Io di notizia vi do una soltanto, rapidissima, per dimostrarvi la teoria d'apertura della puntata di oggi di Jefferson, ovvero che ce ne sono due di Obama in circolazione, sicuramente ce ne potrebbero essere anche tre, perché non contento di fare tutto quello che fa, ovvero la pallina da flipper per il mondo e poi il salvatore della patria, appunto in patria, fa anche il telecronista e sarà telecronista dell'All-Star Game di baseball che si tiene tra pochi giorni, lancerà credo anche la prima pallina, poi andrà su nella cabina dei telecronisti e dirà la sua anche su baseball, magari azzecca, azzecca pure chi vince come ormai fa in tutti gli sport. Beato lui che prende le vitamine, perché sennò non capisco come fa E non a caso su questa doppia tripla vita di Obama, non so se ho visto su Washington Post, New York Times, alcuni dello staff che si lamentano che non ce la fanno che più, ne fanno che, più beh, che lo stress, che non dormono più e cose di questo tipo. Non tengono. Vai. Allora, sempre dalla Cina, io vi do un po' di indicatori, diciamo così, economici, ma un po' atipici, che però credo possano rendere l'idea sempre di questo continente cinese. Se volete farvi una casa a Shanghai. Ecco, per esempio, sono state vendute un tot di appartamenti a Thompson Riviera, che è la zona più chic, più lussuosa, non solo di Shanghai, ma forse dell'intera Cina. Ucraina. Ebbene, pare che il prezzo al metro quadrato sia sui $14,370, quindi prezzi da Manhattan, forse neanche 25 milioni delle vecchie lire. Non lo so, comunque al pare metro quadro. La cosa altrettanto curiosa è che a comprare questi appartamenti sono soprattutto giovani ventenni, quindi il dinamismo cinese delle nuove generazioni che entrano con prepotenza nel mercato immobiliare. Altro dato riguarda il traffico degli aeroporti. Proprio oggi sui giornali italiani abbiamo letto di crisi di passeggeri per i nostri aeroporti, e invece le stime su Pechino parlano di 62 milioni di passeggeri nel 2009 e l'incredibile quota da raggiungere per il 2012 di 100 milioni di passeggeri. Sto diventando yuppie, è il momento yuppie della Cina, le mille luci, Cina rampante, sì. Le mille luci di Shanghai. Quanti saranno questi giovani cinesi che si fanno una casa su un miliardo, da 20, quant'è, $25,000 al metro qua? Beati loro. E poi il mutuo comunque lo dovranno pagare. E questo è Jefferson 2, queste sono le storie che vi raccontiamo da tutto il mondo. Io sono Stefano Pistolini, redazione Milano Enrico. In regia a Roma c'è Valerio Rocchetti, a Milano Valeria Bernardi. La mail è jefferson2@radio24.it. Abbiamo due pagine Facebook ormai vetuste, gloriose, redazione Jefferson 2 e Jefferson 2 Radio 24 Express Yourself. Anche questa puntata naturalmente va in replica a mezzanotte, il podcast lo trovate sul sito della radio. La diretta è domani dopo le 4, come sempre, qui da Radio 24. State bene. 我回家去打坐取舍生养性，沉默的人最聪明，不做无聊的回忆。